San Franco 27 0 25. Nicola. Non ti sentono loro, non ti sentono, ti sento io ma loro no. Dai, un saluto a tutti, ciao. Ok, ci sono io. Io ci sono. Uno, due, tre, uno, due, tre, uno, due, tre. Il solito portantista Giulio. Vabbè, non ci fa niente. E me lo sono detto. Ciao Marco. Ciao, qua è acceso ma sono distante. Ciao a tutti, buona serata. C'era Nicola che chiamava ma non lo sentivate. Io qui. Ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, perché poc'anzi stavo parlando io con Nicola. Era qui in zona da me, per cui lo sentivo bene. Sì, è arrivato praticamente sotto casa e quindi l'avevate perso come segnale. Vi saluta, ciao, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao Marco, ciao. Giulio, ma tu mi senti? Sì, avanti, già fa. Allora, sei tu dove ti puoi chiamare? Sei in... sei qua o sei là? Praticamente, sono tutto quel canale che apparenti. C'è sempre quel deficiente. Sì, quel di male. Aumenta, Giaffra, aumenta. Gianfranco, aumenta. Giulio, chiamare su tutte e due le frequenze. Sono operativa qua. Arriva molto forte qua, Forse il segnale più forte che sto ricevendo in questa zona, Attenzione perché non siamo molto lontani, È quello stronzo, già lo sai, è quello stronzo lì. Gianfranco. Sì, Giulio, tanto che non parlare, ho qua o là. Sono una cosa su tutte e due, ti sento su tutte e due. Che ti scende un accidente che crepi subito. Quanto sei imbecille, un uomo umano, e ti fai un raio di aria. Un altro segnale adesso, È notato. Ehi. E ti puoi essere imbecille a quel punto, Marco? Non passi, no, Giulio. Lo so, perché non aumento. Non passo perché non aumento. Sta sempre soffiando nello stesso posto, sempre in mezzo alla gamba della madre. Questo imbecille deficiente, maleducato, miserabile. Ma lascialo perdere, che non fa niente, tanto Giulio, per quanto forte può arrivare, ti dicevo. Dimmi se adesso mi senti meglio, innanzitutto. È un miserabile, Gianfranco, ce ne sta a fare. Guarda, mi puoi chiamare un po' o là, non c'è differenza per me. E tanto è impossibile che lui possa fare queste cose. Io ti ascolto, sia su 10 sia su 14. Poi non ti posso dare anche altre frequenze, no, per me non c'è problema. Giulio, sono su due frequenze. Trovo un po' una delle due, cosa ti piace di più. Quando parte ti metto la portante. Ho capito. Siamo imbecille. Passa sul 10, Giulio. Ti sento, chiaro e forte. Quando passi, metti la portante, già sta. Giulio. Sì, metti la portante quando parli tu, questo deficiente. Sì, tanto io sono anche sul 6, sul 10, quindi non c'è problema. Ascolta, lo possiamo fregare se tu passi su 26 0 25. Sì.